Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Mi sono riconosciuto gay da poco. Questo post è dedicato ai ragazzi che si sono riconosciuti gay da poco. Mi capita spesso di sentirmi dire in chat: so che sono gay, ok, ma adesso che faccio? È a questa domanda che mi propongo di rispondere. Come ben sanno i ragazzi che si sono da poco riconosciuti come gay, riconoscersi gay non è facile. I diffusi pregiudizi circa l'omosessualità allontanano in genere un ragazzo dalla possibilità di interpretare correttamente in chiave gay la sua sessualità. Tutta l'educazione, sia quella istituzionalizzata, famiglia, scuola e altre agenzie educative, sia quella derivante dal gruppo dei pari, è orientata in maniera pressoché esclusivamente eterosessuale. Un ragazzo che cresce è quindi indirizzato verso l'eterosessualità in modo molto forte dall'ambiente circostante. Quando un ragazzo avverte coscientemente i primi impulsi omosessuali, tende automaticamente a fraintenderli o comunque a sottovalutarne la portata. In particolare, legge i giochi a sfondo omosessuale esplicito, anche quelli cui ha partecipato con coinvolgimento emotivo molto profondo, come dei semplici giochi esplorativi e di conseguenza non attribuisce ad essi nessuna valenza sessuale. Anche quando ha consapevolezza del contenuto omosessuale di quei giochi e accetta l'idea che si tratti in modo esplicito di un contatto sessuale con un altro ragazzo, evita di utilizzare, nel suo caso specifico, la parola gay o la parola omosessuale e parla piuttosto di scherzo o di gioco. Non si considera gay perché non prova o pensa di non provare un trasporto anche affettivo verso i ragazzi e conclude che si tratta di qualcosa di solo sessuale. Assume atteggiamenti eterosessuali, accosta ragazze, stringe con loro amicizie, sperimenta anche una fisicità etero, almeno a livello di baci e di carezze, talora anche con un contenuto scopertamente sessuale. Talvolta accetta un rapporto con le ragazze che comprende anche la sessualità genitale e di questo si sente fiero, perché interpreta il fatto come indice di eterosessualità, ossia secondo il modello che ha assimilato di normalità. Si masturba pensando ai ragazzi, ma considera la questione del tutto marginale e facilmente controllabile. Quando le pulsioni gay si manifestano a livello cosciente per quello che sono, i ragazzi nella maggioranza dei casi vivono momenti di scoraggiamento e di paura, ma non dovuta alla scoperta in sé, ma a due ragioni specifiche. Innanzitutto, conoscendo la realtà gay soltanto attraverso la visione dei media, non ci si riconoscono e hanno l'impressione di essere sì gay, ma in qualche modo di essere lontanissimi dalla media del mondo gay, quando invece nel 99% dei casi è vero esattamente il contrario. Secondariamente, riconoscendo istintivamente l'omofobia del proprio ambiente familiare e del proprio ambiente sociale, ritengono che il loro orientamento sessuale debba rimanere assolutamente segreto. Tuttavia, non è raro il caso in cui, invece, subentrano dei veri momenti di entusiasmo verso i gay intesi come una specie di patria ideale, e allora una dimensione ottimistica, peraltro decisamente assai poco fondata su dati reali, invade i ragazzi. L'entusiasmo della scoperta prevale sulla valutazione del rischio e con atteggiamento davvero neofita un ragazzo che si è appena accettato come gay ritiene che ci sia l'obbligo, per essere dei veri gay, di sottoporsi a dei riti di passaggio. Fare coming out pubblico o almeno allargato a molte persone, frequentare ambienti dichiaratamente gay, parlare spesso di omosessualità con atteggiamenti rivendicativi di principio, come la santa causa gay, ma l'esperienza insegna che la stragrande maggioranza dei ragazzi gay parla del proprio orientamento sessuale ad un numero ristrettissimo di persone, una o due, e sceglie quelle persone con la massima cura e in ogni caso evita di diffondere la notizia a persone di cui non si fida del tutto. La stragrande maggioranza dei ragazzi gay non frequenta ambienti dichiaratamente gay perché frequentare questi ambienti equivale a dichiararsi. la stragrande maggioranza dei ragazzi gay non dichiarati non solo non considera un dovere, ma considera un'autentica follia il coming out pubblico e ha coscienza che in moltissimi casi il coming out pubblico non è altro che una dichiarazione pubblica formale di ciò che la gente ormai già sapeva per altra via, in genere a seguito di comportamenti imprudenti dei ragazzi. La stragrande maggioranza dei ragazzi gay non fa coming out con i propri genitori. In media si stima che nel corso della vita un gay ogni 20 abbia parlato ai genitori della propria omosessualità. La stragrande maggioranza dei ragazzi gay non assume atteggiamenti rivendicativi di principio concernenti l'omosessualità. Tutto ciò accade non perché la stragrande maggioranza dei ragazzi gay sia debole o senza dignità, ma perché quei ragazzi conoscono la realtà in cui devono vivere e valutano i loro atteggiamenti in termini concreti e non come una questione astrattamente di principio. A questo punto, che cosa deve fare un ragazzo? Deve rendersi conto che i gay esistono e sono molti, e tra essi circa il 25-30% non si è sempre identificato come gay, ma ha vissuto una fase transitoria di eterosessualità spesso durata per anni e comprendente anche una vera e propria vita sessuale etero. Che un gay non vive in una situazione paragonabile a quella di un etero e che quindi manifestare il proprio orientamento sessuale è rischioso sia in ambito sociale che in ambito familiare. Che il coming out è rischioso ma è anche irrevocabile. Che un ragazzo serio e non dichiarato ha in genere grossi problemi a conoscere altri ragazzi gay seri e non dichiarati, e che non è certo la frequenza dei locali gay o delle chat erotiche o dei siti di incontri che può contribuire a risolvere il problema. Che trovare persone disposte ad incontri sessuali è facile, ma tutto questo con l'amore gay non ha nulla a che vedere. Che i gay non sono un gruppo omogeneo, e che quindi tra due ragazzi gay ci possono essere dei modi così diversi di impostare la vita da rendere di fatto impossibile la costruzione di rapporti affettivi profondi. Molti dei ragazzi che si sono riconosciuti gay dopo aver vissuto una fase etero non tengono conto di tutto questo e si mettono alla frenetica ricerca di un ragazzo. Frequentano siti di incontri e chat erotiche, mettono la sessualità al primo posto trascurando la dimensione affettiva del rapporto e in questo modo, oltre a costruire i presupposti per una serie di disillusioni, corrono spesso anche dei rischi relativi alle malattie sessualmente trasmesse. È la mia prima preoccupazione quando parlo con i ragazzi insistere sulla necessità di evitare nel modo più rigoroso i rischi per la salute. Non fidandosi mai di ciò che un ragazzo che vuole fare sesso con te può dirti. Quando un ragazzo si trova nella possibilità di fare sesso con un ragazzo che lo interessa, parlo di sesso, non d'amore, è capace di mentire spudoratamente. Tipico è il caso di quanti, per giustificare il mancato uso del preservativo, affermano di essere donatori Avis e quindi di essere super controllati anche dal punto di vista delle malattie sessualmente trasmesse. Si tratta di affermazioni false nel 99,9% dei casi. Fare sesso non protetto con persone che frequentano le chat erotiche e che hanno quindi un alto numero di partner sessuali è un comportamento da totali incoscienti. Per i ragazzi gay è assolutamente fondamentale rendersi conto che l'innamoramento unilaterale è una cosa e che l'amore gay condiviso è una cosa completamente diversa. Per creare un rapporto d'amore bisogna essere in due, ma bisogna essere in due in senso sostanziale, bisogna cioè che l'amore sia corrisposto. E questo è il vero punto critico della vita di coppia, la reciprocità affettiva. Che la coppia conviva o meno, sia più o meno stabile, conta poco. Se non c'è una reciprocità affettiva, non esiste neppure la vita di coppia. C'è una situazione molto tipica per i ragazzi gay in cui una vera reciprocità è impossibile. Intendo dire quando un ragazzo gay si innamora di un ragazzo che non è gay. In situazioni del genere, Quanto il ragazzo gay sia innamorato non conta nulla. La situazione è del tutto analoga a quella di una ragazza che si innamora di un ragazzo gay. Per quanto lei sia innamorata, non riuscirà a trovare nel ragazzo gay una vera reciprocità affettiva. Molti ragazzi gay, spesso giovani, ma talvolta anche quarantenni, si innamorano di ragazzi etero e in queste situazioni trascorrono in vane attese anche molti anni. La loro attenzione affettiva è polarizzata su un ragazzo etero che non potrà corrispondere al loro affetto ed essi, nello stesso tempo, sono talmente assorbiti dal loro ideale impossibile da trascurare altre ipotesi che sono invece concretamente praticabili. Quando finalmente un ragazzo gay serio e non dichiarato trova un altro ragazzo gay serio, cosa possibile anche se non facilissima, resta spesso disilluso perché si rende conto che anche tra persone tra le quali in teoria si potrebbe instaurare un ottimo rapporto, in realtà spesso il rapporto resta a livelli superficiali o formali. Ed è lì che arriva la delusione, ma è anche lì che deve intervenire un po' di razionalità. Trovare un ragazzo col quale condividere la vita è l'obiettivo di fondo di un ragazzo gay serio. Ma per cercare di creare le condizioni favorevoli per realizzare una vita di coppia stabile è necessario costruirne i presupposti che sono sostanzialmente due: la stabilità economica e la possibilità di avere un alloggio in cui vivere col proprio compagno in modo che sia garantita la necessaria privacy. Si tratta di due presupposti di difficile realizzazione, ma svalutarli significa non raggiungere mai la vera libertà economica e quindi non poter raggiungere mai nemmeno la vera libertà affettiva. Due osservazioni per concludere. Per poter costruire un rapporto di coppia serio è necessario volersi bene in modo profondo. Essere disposti a sacrificarsi per il bene dell'altro, essere completamente onesti con se stessi e con il proprio compagno. E tutto questo è incompatibile con atteggiamenti furbeschi o predatori e con la tendenza a prevalere e ad imporre comunque il proprio punto di vista. Essere in due significa assumere il punto di vista del noi abbandonando quello dell'io. Questa è la voce del progetto. Una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.